Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, chiaramente ancora la vicenda Telecom che, come presumibile, sta adesso assumendo un contorno borsistico, e questo ci sta tutto, ma anche di carattere politico. Ieri ne ha parlato, l'abbiamo già raccontato, ma vale la pena anche risentirlo, il Premier Enrico Letta. Di nuovo oggi varie dichiarazioni, perché c'è stata, e va detto che c'è anche un motivo istituzionale, c'è stata un'audizione del numero uno di Telecom, Franco Bernabé, ma non solo, perché da un lato Franco Bernabé è stato sentito dal Senato ed è il presidente di Telecom Italia, ma ci sono state anche altre dichiarazioni, perché mi riferisco sostanzialmente al Copasir. Il presidente del Copasir, Giacomo Stucchi, ha detto che la sicurezza nazionale è in pericolo, attraverso la rete passano anche le comunicazioni più riservate, e anche il ministro delle attività produttive, Zanonato, è intervenuto, ha detto sì, quella di Telecom Italia è stata una cattiva privatizzazione, occorre evitare che la rete finisca in mano straniera e garantire l'occupazione. Ascolteremo dopo questa dichiarazione, ma è intervenuto anche il vice ministro delle comunicazioni Antonio Catricalà, e ha detto il governo è stato avvertito a cose fatte, e qui occorre capirsi, perché da un lato è un gruppo privato, dall'altro però obiettivamente la rete telefonica ha degli elementi di sicurezza nazionale. È sembrata molto molto seccata e piccata la risposta di Catricalà. Poi Catricalà ha aggiunto che comunque il governo è interessato alla governance della rete di telecomunicazioni, vanno tenuti distinti due aspetti, cioè la Telecom come soggetto di telefonia, dalla Telecom come proprietario anche della rete dove passano tutte le comunicazioni telefoniche del paese. Ha detto infatti Catricalà, lo scorporo della rete si può imporre, serve però una legge, non si può fare un esproprio senza un indennizzo, e ci mancherebbe. E poi ha aggiunto Catricalà, gli spagnoli non imporranno le loro leggi, finora i rapporti sono eccellenti. Anche Franco Bernabé ha detto di aver saputo del riassetto, questo è più singolare a mio avviso, dal comunicato stampa, cioè nessuno gli aveva spiegato cosa stava succedendo, e ha detto io sono stato informato, abbiamo avuto conoscenza ieri dalla lettura dei comunicati stampa della recente modifica dell'accordo parasociale tra gli azionisti di Telco, quello che appunto porta gli spagnoli ad avere oltre il 50% di Telco, con possibilità di arrivare fino al 70% e poi nel 2014 fino al 100%. Cos'è Telco? È l'azionista di riferimento del gruppo Telecom Italia, lo abbiamo spiegato bene anche ieri, a quasi il 25%. Non scatterà nessuna OPA, perché questa operazione è avvenuta all'interno di Telco, ma la quota di Telco dentro Telecom Italia resta ampiamente sotto il 30%, che è il livello oltre il quale scatta l'obbligo di offerta pubblica di acquisto. Dicevo, varie dichiarazioni del mondo della politica e delle istituzioni, e reazioni anche di borsa, però, perché il titolo perde il 4,42%, ed è il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, a 57 centesimi di euro per azione. Ma parleremo anche dei conti che ha fatto oggi il Sole 24 Ore, che ha scoperto, si fa per dire, che dalla privatizzazione ad oggi il titolo Telecom, dal 98 ad oggi, ha perso in borsa il 24%, a fronte di un indice europeo della categoria telecomunicazione che è cresciuto del 15%. Quindi, se sommiamo le due cose, abbiamo una differenza del 40%. Se uno avesse comprato l'indice TLC europeo nel 98, avrebbe adesso il 15% in più, che non è tanta roba, ma insomma è sempre un guadagno. Se avesse comprato Telecom, avrebbe avuto il 24% in meno, la differenza è quasi il 40%. Ma la cosa a mio avviso più significativa è che dai massimi del titolo, li ha toccati nel 2005, il calo del titolo Telecom Italia è stato del 90%, praticamente sono stati bruciati 42 miliardi di capitalizzazione, ma nel frattempo sono stati distribuiti 11 miliardi di dividendi agli azionisti, tra cui anche i piccoli azionisti. Però questo la dice lunga su come, mettiamola così, Telecom Italia sia stata gestita in questi anni, perché insomma avere 42 miliardi di capitale che vengono bruciati in borsa, ma nel frattempo distribuire agli azionisti 11 miliardi di dividendi, capite bene che è un po' un controsenso per essere proprio buoni. Nella seconda ora del programma invece parleremo anche della parte più economica dell'Italia, dichiarazione del Premier Letta da New York sulla tenuta del governo da un lato, ma anche sulla possibilità di raggiungere di mantenere il limite del 3% sul deficit. Attenzione, perché su questo poi oggi è uscito anche il rapporto della Commissione Europea e ne parleremo col vicepresidente Antonio Tajani, un rapporto che parla di un rischio vero e proprio, anzi di una fase di deindustrializzazione che è un rischio complessivo dell'Europa, ma è un rischio fortissimo per l'Italia, dove la produzione industriale è attualmente ancora al 20% più bassa rispetto al 2008, il che vuol dire che è come se fosse scomparsa un'impresa su 5, visto che produciamo come industria un quinto in meno. E anche di questo parleremo. La borsa meno 4,60 a Telecom Italia, meno 1,80 invece la Popolare di Milano, meno 1,70 Intesa San Paolo, meno 1,70 anche Mediaset. Chi va bene? Autogrill più 3,5, A2A più 2,80, Pirelli più 2,20, Unicredit più 1,20 come Enel e Buzzi Unicem. 349-238-6666 per i vostri SMS, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, le altre notizie in breve per quello che riguarda l'economia internazionale. Si vedo già molti messaggi su Telecom, abbiate un po' di pazienza, adesso ci arriviamo. Petrolio è fermo a $103 il barile, oro a $1321 l'oncia. La Francia invece oggi ha segnato un nuovo record nel suo debito, che si sta avvicinando, non dico a livelli italiani, ma quasi, al 95% del PIL. E solo dal 2015 il livello del debito francese comincerà a scendere. Tra l'altro la Francia chiuderà l'anno con un deficit superiore al 3%, ma ha ottenuto una deroga dall'Unione Europea. Il deficit dovrebbe andare sotto il 3% solo nel 2015. Nel frattempo il Ministero del Tesoro britannico ha avviato un'azione legale contro i limiti ai bonus dei manager nel settore bancario, è un limite stabilito dall'Unione Europea. Ora, noi abbiamo il massimo rispetto per la Gran Bretagna, abbiamo sempre detto che insomma è un paese da prendere come modello, tranne che in una cosa, nella sua obiettiva. Io capisco che loro abbiano l'industria finanziaria più forte dell'Europa e una delle più forti a livello mondiale, la City di Londra, però qui più che avere un'industria finanziaria sembra che il governo britannico ogni tanto sia succube dei manager della City. Eh no, la Tobin Tax ha rotto con l'Unione Europea quando c'era un'idea di, diciamo, regolamentare maggiormente i mercati finanziari. Adesso anche il limite contro i bonus ai manager bancari, che nasce non così da un'idea luddista dell'Unione Europea, ma nasce dal fatto che secondo molti la creazione della bolla o dei rischi spregiudicati che ci hanno portato alla crisi era dovuta anche a un modo di remunerare i manager troppo pagati rispetto ad altri manager, quelli bancari della finanza, e troppo legati ai bonus collegati alle azioni, per cui il manager era tentato, si fa per dire, l'hanno fatto quasi tutti, di pompare il titolo perché questo gli portava un bonus. Allora, dare uno stipendio va bene, il bonus può essere un bel incentivo, il bonus non può diventare però l'obiettivo di un manager, perché poi vediamo quello che è successo, cioè qualunque manager è tentato di assumere rischi impropri pur di intascare poi il bonus. Ora, io non capisco perché la Gran Bretagna debba schierarsi contro questo, anzi il Ministero del Tesoro britannico, se non per via della potentissima lobby della City londinese. Quindi dei lobby non ce l'abbiamo solo noi, mettiamo così. Notizie che riguardano l'Italia. L'agenzia di stampa Radio Cori, Sole 24 Ore Radio Cori, pubblica un'indiscrezione secondo cui il Fondo Monetario Internazionale stima il deficit italiano quest'anno non al 3%, non al 3,1% provvisoriamente stimato dal governo, ma al 3,2%. Deriva questa diversa stima da un calcolo, scusatemi, diverso sull'impatto che avrà l'operazione sull'IMU. Tra l'altro il PIL italiano viene visto a un meno 1,8% quest'anno e un più 0,7% l'anno prossimo, quindi anche in questo caso peggio, leggermente peggio di quanto non prevede il governo, che prevede un meno 1,7% quest'anno e un più 1% l'anno prossimo. Allora, nel frattempo il premier Enrico Letta, che è a New York a numerosi appuntamenti, il più importante dei quali, se vogliamo, è il discorso all'ONU, ha suonato la campanella di avvio degli scambi a Wall Street. Vediamo come va Wall Street. Beh, più 0,17%, non penso obiettivamente sia merito di Letta, ma questo è l'andamento dell'indice americano. Vi do anche Parigi meno 0,11, Francoforte invariata, Londra meno 0,40, Milano invariata. Ma dicevo, Letta, oltre ad aver suonato la campanella a Wall Street, per chi suona la campanella, si è detto invece soddisfatto e ottimista per l'accoglienza ricevuta dalla comunità finanziaria americana. Le misure di destinazione Italia hanno avuto un'ottima accoglienza, a dimostrazione che sulle cose concrete all'estero l'Italia viene vista positivamente. Servono poche parole, più fatti, su questo siamo tutti d'accordo. E poi altre dichiarazioni di Letta su cui, insomma, lasciatemi essere, non dico perplesso, ma perché il premier ha detto: ho incontrato tanti investitori internazionali, ho detto loro di investire in Italia, ho trovato grande disponibilità, e questo non c'è motivo per dubitarne, soprattutto perché presentiamo stabilità. Insomma, adesso, che l'Italia in questi ultimi mesi sia un esempio di stabilità, troppa grazia Sant'Antonio. A me sembra che tutti i giorni stiamo ragionando sulla tenuta e stabilità del governo Letta, per cui che abbiamo dato un esempio in questi mesi di stabilità politica e di poca incertezza, a me sembra un po' troppo, però. E poi ha detto il premier Letta: l'Italia è un paese virtuoso, giovane e credibile. Virtuoso, giovane e credibile. Adesso, giovane, abbiamo la classe dirigente più vecchia d'Europa. Credibile, sperem, virtuoso. Insomma, non è che veniamo citati sempre come esempio di virtuosismo, però. Il nostro obiettivo, ha aggiunto Letta, è realizzare 12 mesi consecutivi di crescita, e per farlo dobbiamo continuare sulla strada del consolidamento fiscale, che vuol dire del risanamento dei conti pubblici. E poi ancora, nei prossimi giorni avremo un commissioner, aggiunto Letta sempre a Wall Street, che si occuperà della spending review. Presto avrete il nome, toccherà tutti i campi tranne la cultura, che è il nostro petrolio. Ancora sulla vicenda l'Italia, invece, perché oggi l'amministratore delegato di Fondiaria SAI, che ha il 5,5% di Alitalia, Carlo Cimbri, ha detto: come italiano penso che una compagnia di bandiera dovrebbe essere un asset di interesse nazionale, non si può chiedere ad azionisti privati di occuparsi di un interesse più ampio, la difesa dell'interesse nazionale non spetta ai soci. E ha anche aggiunto: una compagnia aerea difficilmente vedrà nell'Italia, in Roma o in Milano, la centralità, al di là delle dichiarazioni di maniera, il che vuol dire che se Alitalia diventa francese, l'Italia perde di centralità ed è chiaro che i flussi turistici e indotto saranno diversi. Ora, su questo devo dire una cosa: anch'io temo personalmente che i francesi, poi li conosciamo, insomma, una volta se dovessero acquisire l'Italia, è chiaro che tenderebbero a dirottare il grosso del traffico, ma questo era già presente in un piano, dirottare il traffico su Parigi. Per cui da questo punto di vista i timori ci stanno tutti. Il problema è che se tu un gruppo non riesci a renderlo profittevole, poi non ti puoi lamentare, se anzi dovresti anche essere contento che arriva qualcun altro a comprarlo, altrimenti lo chiudi e mandi i dipendenti a casa. Ancora sulla vicenda Riva, e questa è un'altra vicenda che si sta complicando. Perché? Perché mentre oggi il ministro Zanonato ha detto, in seguito ai limiti e ai vincoli stabiliti dal GIP, verificherò in giornata se esistono effettivamente e concretamente le condizioni per riprendere le attività, pochi istanti fa le agenzie hanno battuto la seguente notizia. Il custode giudiziario ha confermato il sequestro delle somme dai conti correnti del gruppo Riva. Si legge in una nota del gruppo che ha precisato che si tratta di somme indispensabili per il pagamento degli stipendi e dei fornitori. E aggiunge il gruppo: purtroppo allo stato delle cose la paralisi aziendale resta assoluta. Quindi, dopo la conferma del sequestro dei conti correnti da parte dei giudici, il gruppo conferma a sua volta che i 7 stabilimenti della Riva Acciai restano fermi, gli operai restano per strada. Questo nel giorno in cui Confindustria è tornata a chiedere con forza una riduzione delle tasse sul lavoro e sulle imprese e riuscire a favorire gli investimenti pubblici e privati. Occorre agire abbattendo in misura significativa il costo del lavoro, ha detto il vicepresidente di Confindustria per le relazioni industriali Stefano Dolcetta, e ha chiesto che la cosa venga fatta nel minor tempo possibile, anche perché ha parlato di emergenza economica e sociale. In realtà due buone notizie tre buone notizie oggi ci sono, prima di passare alla vicenda Telecom che riguardano il nostro paese. La prima è di carattere statistico, ma è importante: il clima di fiducia dei consumatori italiani continua a migliorare, alcuni diranno inspiegabilmente, ma continua a migliorare. Dai 98 punti ad agosto, anzi diciamo eravamo a 97 punti a luglio, 96, 95 a giugno, siamo passati ai 100 punti del mese di settembre. È il valore più alto dal luglio del 2011, il quarto rialzo della fiducia dei consumatori consecutivo. E questa è una buona notizia di carattere statistico. Ce n'è una invece di carattere aziendale, perché da un lato la Luxottica, che devo dire è uno dei gruppi più all'avanguardia in quello che si chiama welfare aziendale, cioè la possibilità di dare delle agevolazioni ai tuoi dipendenti, un sostegno che non sia solo in busta paga, gli asili nido, ma ricorderete anche i bonus per acquistare generi alimentari in certi esercizi commerciali, insomma trovare un modo per riuscire a ovviare le difficoltà di uno stipendio basso grazie anche a un'altissima pressione fiscale sullo stipendio stesso. Dicevo, oggi Luxottica ha annunciato che organizzerà i corsi di recupero per i figli dei dipendenti, figli che hanno problemi scolastici. 400 ore di corso di recupero estivo dedicati a 194 studenti, 120 dei quali sono figli di dipendenti, e anche 33 stage in varie aziende del territorio per gli allievi delle scuole professionali. È un'altra iniziativa di welfare aziendale, appunto, di Luxottica. Grazie agli accordi raggiunti con i sindacati, i corsi, la cosa bella che mi piace molto è che i corsi hanno coinvolto 13 insegnanti di scuola pubblica scelti fra il personale precario, e tutti gli studenti che hanno seguito i corsi di recupero hanno superato a settembre gli esami e sono stati ammessi a frequentare il nuovo anno. Dico, un bel esempio, perché ci sono tanti modi per gratificare un dipendente, chiaramente in busta paga in primis, ma ci sono anche modi diversi, modi in cui uno si lega a un'impresa, a un luogo di lavoro che non è solo un luogo, diciamo, dove guadagnare uno stipendio. E questo, il modello Luxottica, è un modello che a mio avviso andrebbe studiato ancora di più. La terza buona notizia riguarda Toshiba, che investe in Italia con la costruzione a Genova di un impianto di attrezzature per regolare i flussi di energia. È il primo del suo genere in Europa. E l'investimento è un investimento comunque importante, 11 milioni di euro. E Toshiba ha precisato che l'operazione comprende anche nuove assunzioni e sarà effettuata dall'ex Ansaldo Trasmissione e Distribuzione, una società che Toshiba ha comprato nel 2011, che si chiama adesso Toshiba T&D Europe. Citavamo Luxottica, adesso non voglio essere offensivo con nessuno, però insomma dall'esempio, dal modello Luxottica, perché insomma è un modello per tanti versi, ma anche nel rapporto con i dipendenti, a un posso dirlo, a un non modello, quantomeno nelle privatizzazioni, perché con quello che è successo l'altro ieri si chiude una storia di Telecom Italia, della vecchia SIP controllata dalla STET. Non ce l'ho con nessuno, anche se poi i numeri sono lì, ognuno può raccontare la sua versione, ma un dato su un dato dobbiamo intenderci. Le privatizzazioni fanno bene a un paese quando sono accompagnate dalla concorrenza. Privatizzazioni senza concorrenza non vogliono dire nulla, vogliono dire dare ai privati situazioni di monopolio o di oligopolio, che a questo punto se le può tenere lo Stato, se questo deve essere l'effetto. Ma Telecom Italia, la privatizzazione di Telecom Italia potrebbe essere oggetto di un bel corso, di un master in qualche MBA, per vedere come non si privatizza un gioiello. Perché la vecchia State SIP, alla faccia dei boiardi di Stato, era un gioiello. Era il primo gruppo di telefonia mobile in Europa, inventò le carte prepagate, era il secondo o il terzo operatore di telefonia a livello europeo complessivo, aveva acquisito controllate in Sud America. Insomma, era un vero modello e un punto di forza dell'Italia. La privatizzazione prima alla Fiat, all'IFI col nocciolino minuscolo, poi il passaggio a Colaninno, i capitani coraggiosi, li ricorderete, di D'Alema, poi l'operazione su Tronchetti Provera, lì il governo che la volle era quello di Berlusconi in centrodestra, hanno portato, e poi adesso diciamo l'ultima versione, ma tutto questo ha portato alla, non mi dispiace, non ci sono altri modi per dirlo, alla distruzione di valore in un gruppo che era un gioiello. Se qualcuno vuole contestare questo, siamo qua pronti a dimostrarglielo, ma non penso che gli convenga. I have a dream that one day on the red hills of Troy, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Mercato europeo, Telecom è una società privata e quindi vigileremo perché ci sia il massimo di attenzione sui profili occupazionali e su tutti gli aspetti strategici per l'Italia. Dopodiché vorrei ricordare a tutti quelli che stanno parlando in questo momento che Telecom è stata privatizzata, di tutte le privatizzazioni italiane credo che non sia stato uno dei più grandi successi, quindi anche se arrivassero dei capitali europei, credo che questi capitali europei potrebbero aiutare Telecom a essere migliore di come è stata in questi 15 anni. No, questo lo dico perché di tutto possiamo parlare, ma questa polemica che sta montando su abbiamo dato la rete di telefonia agli stranieri mi fa ridere per due motivi. Uno, non mi sembra che il capitalismo di casa nostra ne abbia fatto un gioiello in questi 2008, 98 adesso, in questi 15 anni? No? Anche di più. Ma soprattutto c'è una cosa che mi fa impazzire, è la dichiarazione del COPASIR, che è l'autorità, diciamo, dei servizi segreti. Aspettate che la riprendo, perché a me ogni tanto in questo paese sembra di vivere in un fumetto, neanche in un incubo, in un fumetto. Dov'è il COPASIR? Allora, cosa dice il COPASIR? Dice: la cessione del controllo di Telecom agli spagnoli di Telefonica pone seri problemi di sicurezza nazionale, visto che la rete di Telecom è la struttura più delicata del paese, attraverso cui passano tutte le comunicazioni dei cittadini italiani ed anche quelle più riservate. E lo dice il presidente del Copasir, Giacomo Stucchi. Come se, caro presidente Stucchi, la Telecom de prima, quella italiana, non avesse intercettato l'intercettabile. Abbiamo avuto i processi a Tavaroli, ma se lo ricorda? A Tavaroli, e poi adesso richiama la Calandra, e agli uomini della Telecom, al gruppo Tiger, che ascoltava, ricattava. No? Ma insomma, cioè, abbiamo avuto scandali, processi, ricatti, era un colabrodo quella rete. Ora va bene tutto, nessuno vuole che vada in mano ai cinesi, però dire che in questo modo è minacciata la sicurezza nazionale in un paese in cui abbiamo fatto un processo con condanne perché gli uomini di Telecom Italia utilizzavano le intercettazioni per ricattare o comunque per fini politici, per fare favori, mi sembra veramente da marziani. Ma per cui non iniziamo a dire che gli stranieri rovineranno Telecom, ci abbiamo già pensato noi. Non iniziamo a dire che gli stranieri ascolteranno, utilizzeranno le informazioni su Telecom, ci abbiamo già pensato noi. Siamo seri. I have a dream. And one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Ma intanto adesso in Telecom è successo pochissimo, cioè è semplicemente successo che il Telefonica ha comprato la maggioranza assoluta delle azioni di Telco. Sono alla fine, controlleranno il 22,5% di una società in cui il 77,5% non è Telco. Non è che è diventata quindi Telefonica la proprietaria di Telecom. Io penso, primo, che bisogna anche qua ragionare non solo sugli effetti delle cose che abbiamo deciso, che sono state decise anni fa, ma sull'intero percorso, e che adesso è necessario attuare tutte le politiche per poter evitare eventuali danni. Quali sono i danni? Che il sistema della rete fissa non sia sotto il controllo italiano, visto che è un asset fondamentale nel nostro paese, e che le attività di compravendita non danneggino l'occupazione, per esempio, ma consentono all'Italia di mantenere i livelli occupazionali nel campo telefonico attuale. Quindi io sto lavorando su questo, ma lo ripeto, non ho poteri magici, cioè, sono effetti di cose decise tempo fa. Certo, non è un buon esempio di privatizzazione questa di Telecom. L'impressione che non sia un buon esempio, sì, ho l'impressione che lei abbia ragione. Il ministro Zanonato è riuscito a dire una cosa corretta nell'ultima parte di questa intervista a Vincenzo Miglietta, perché insomma, che non sia stata una buona privatizzazione siamo d'accordo tutti, ma ministro, mi scusi, con massimo rispetto, ma come si fa? Io non so, oggi è la sagra del pressapochismo, e ha visto anche il premier Enrico Letta che è uno preciso su queste cose, ma come si fa a dire che non è successo niente, è successo pochissimo? Praticamente Generali e Mediobanca e Intesa San Paolo stanno uscendo da Telecom, hanno già dimezzato le quote, gli spagnoli sono saliti a oltre il 60%, hanno un'opzione per salire al 100% di Telco nel 2014, ma cosa vuol dire che Telco ha solo il 22% di Telecom? Ma è l'ABC, è economia 1, uno va all'università, fa economia 1 e sa che esiste la maggioranza assoluta, ma esiste anche la maggioranza relativa. Tutti i gruppi italiani, non è che tutti hanno il 51%, basta che ci sia un azionista che ha il 25%, il 23% e gli altri hanno lo 001% e comanda lui. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, o siamo impazziti noi a dire, ministro, che Telecom è spagnola, o lei non ha capito, abbia pazienza, ma veramente niente dell'operazione che è successa. E poi mi dice che non ha la bacchetta magica, intanto è importante sapere come usarla, poi vediamo se è magica o no. Ma non basta, perché ripeto, oggi anche Catricalà, anche il vice ministro delle comunicazioni Antonio Catricalà, che è stato presidente dell'autority per molti anni e lì andava tutto bene, invece dice il governo è stato avvertito a cose fatte, bisogna fare lo scorporo della rete adesso, però serve una legge, non si può fare un esproprio senza indennizzo. Ma qui siamo a, ma neanche penso il Comintern comunista poteva ipotizzare un esproprio senza indennizzo. Io vi giuro, non so, mi sembra di vedere il governo oggi veramente in ordine sparso sulla vicenda Telecom. Sentiamo Catricalà. Il governo è stato avvertito dell'operazione a cose fatte. Non sta a me esprimere un giudizio in merito a ciò che è accaduto nella notte tra il 23 e il 24 settembre nell'ambito di una società totalmente privata. Certo è che fino a quella notte le scelte in campo riguardavano le opportunità che il presidente Bernabeu offriva alla società con lo specifico fine di incrementare le capacità di Telecom di investire, mantenere il proprio rating e aggredire il mercato. Prendendo atto della situazione che oggi si determina, sta a noi fare in modo che i propositi originari siano valorizzati dal maggiore impegno dell'importante gruppo europeo nel settore telefonico italiano e trarre opportunità e vantaggi per il Paese da quella che oggi sembra la maggioranza degli italiani solo un brutto epilogo di una sbagliata privatizzazione. Ah, su un punto siamo tutti d'accordo, sbagliata privatizzazione, però anche Catricalà, a parte il fatto che, ripeto, lei è stato presidente dell'autorità sulle comunicazioni, poteva chiederla con forza, l'ha fatto, ma insomma con più forza negli anni passati, lo scorporo della rete Telecom. Ma l'avete sentito cosa dice? Quello che è successo nella notte tra il 23 e il 24, ma è colpo di Stato? I generali in Parlamento? Quello che è successo nella notte tra il 23 e il 24... La borsa ci sta ragionando da 3-4 mesi che raccontiamo ogni giorno, Telecom si muove perché c'è l'ipotesi che gli spagnoli salgono. Mediobanca in un'intervista pubblica su un giornale non semiclandestino, perché se non ricordo male era il Corriere della Sera, ha detto a giugno usciremo da Telecom, non ci interessa più star lì. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma li leggete i giornali? Adesso basta, sto zitto perché mi saltano le coronarie. Fabio Pavesi. Figurati. Fabio Pavesi, il nostro uomo su Telecom, oggi ha scritto le cose bellissime sul Sole 24 Ore, perché hai fatto il calcolo di quanto ci hanno smazzato gli azionisti di Telecom in questi mesi. No, io sono allibito dalle dichiarazioni del governo e anche di Copasir. Copasir mi fa impazzire. Potrebbero usare la rete Telecom per intercettarci. Oh, Tavaroli, Cipriani, Mancini che faceva parte dei sismi, un'inchiesta, condanne, hanno ascoltato, ricattato tutti, manager, cioè, rischiava di finirci in mezzo anche Tronchetti Provera, insomma, di tutto è successo, però adesso il problema è che gli spagnoli potrebbero ascoltarci. Allora, non vi posso leggere gli sms. Ve ne leggo solo uno, tutta colpa di Bobo Vieri e della sua richiesta di risarcimento, perché almeno la piantiamo. No, io sono allibito oggi, perché sono tutte brave persone, il Premier Letta, il Ministro Zanonato, il Vice Ministro Catricalà, il Presidente del Copasir, ma sembra che fossero in vacanza in questi mesi. Allora, Fabio Pavesi, che cosa è successo? L'abbiamo raccontato, era tutto già previsto, come ne cantava, chi cantava? Cocciante, era tutto previsto fino al punto che sapevo che ora tu mi avresti detto che riduci le tue quote dentro Telecom Italia perché siamo più felici, Mediobanca, Generali, Intesa da San Paolo se ne vanno e gli spagnoli aumentano. Perché il titolo reagisce così male oggi e soprattutto anche il calcolo che tu hai pubblicato su Sole 24 Ore? Beh, intanto anch'io sono basito alla dichiarazione di Zanonato, nel senso che mi sembra degli apprendisti stregoni, cioè quando uno dice non è successo niente, a me viene subito in mente la Telefonica, prima mossa che farà sarà conquistarsi il mercato brasiliano, che è l'unico mercato dove la Telecom Italia è presente, è il mercato che cresce, e poi ha una possibilità di entrare nel mercato italiano, al di là della rete fissa, ripeto, cioè ovviamente un operatore telefonico concorrente che si compra un concorrente in Europa e che ha attività in Sud America, se le ingloba. Comunque al di là di questo. Anche perché chiariamo che Telecom Italia, Team Brasil, chiunque di voi sia mai stato in Brasile lo sa, è il colosso della telefonia mobile brasiliana, ossia uno dei paesi che fanno i BRIC, no? Brasile, certo. Russia, India, uno dei paesi che ha la maggior crescita economica in questo momento a livello mondiale. Un dettaglio anche per questo, caro Ministro, prego. Allora, che il titolo reagisse male era nelle cose, anche perché questa è un'operazione tra soci in maggioranza, cioè non c'è un'OPA, tant'è che il titolo ieri è salito a 0,6, oggi ovviamente certo. Il mercato ci ha pensato e ha detto ma qui non c'è nessun tipo di regalo agli azionisti di minoranza, che sono, ripeto, decine di migliaia o centinaia di migliaia, ma perché semplicemente Telefonica offre una sponda alle banche per uscire dal capitale con meno perdite, perché di fatto Intesa Generale Mediobanca ha svalutato a 0,5, quindi è il paradosso, Mediobanca oggi guadagna perché la transazione è fatta a 1 euro. ma le altre banche avevano portato sì svalutazioni, però ovviamente Telefonica dà un aiutino ai tre soggetti italiani per uscire dal capitale, ma non ha nessun riverbero sugli azionisti più quindi deboli. È vero che questo, non un favore, ma insomma, aiutano un po' con le banche creditrici di Telecom? Le aiuta, e come, e soprattutto c'è da chiedersi come mai negli ultimi anni accanto a un socio industriale straniero c'erano solo le banche nazionali, non c'era un soggetto industriale. Cioè il paradosso è questo, che dopo la fine della stagione di Tronchetti e prima ancora di quella di Colaninno, tu trovi a governare il colosso telefonico le banche. Questo è un paradosso che dice lunga sulle privatizzazioni senza capitali, perché io aggiungerei non solo privatizzazioni senza concorrenza, ma senza capitali. Cioè Colaninno e Tronchetti cosa hanno fatto? Hanno comprato a debito la società. E anche la Fiat, al suo tempo. La Fiat. Quindi, non a debito, ma con una quota piccolissima, controllava il terzo gruppo di telecomunicazioni a livello europeo. Cioè, noi abbiamo ricostruito la storia, e questa è più che una farsa, è una tragedia, perché quando un titolo è il peggiore di Piazza Affari negli ultimi 15 anni, quando un titolo è il peggiore rispetto ai concorrenti europei a 15 anni, quando un titolo di fatto azzera il suo valore, è una debacle. E che lo faccia un operatore telefonico, un ex monopolista, è due volte una debacle. Allora spieghiamo perché, è molto banale. Con l'entrata di Colaninno in scena, il debito di Telecom passa da 10 miliardi a 23 in un anno, raddoppia. Con la gestione Tronchetti il debito arriva a 50 miliardi nel 2005. Però se tu aumenti il debito, e lo fai perché? Perché tu hai costruito delle scatole sopra che con poco capitale vogliono governare la società, e quindi ricorri al debito. Ed erano gli anni del debito facile. Però che cosa succede? Che se tu nel frattempo vendi le attività straniere, perché Telecom ha fatto questo, ci ha tenuto solo Brasile e Argentina, ma si è sbarazzato della Turchia, si è sbarazzato... Vero. Allora, se tu decidi di fare l'operatore nazionale in un mercato saturo, tu vai incontro a una guerra dei prezzi e vai incontro a una diminuzione dei margini. Cioè se tu il debito aumenta, i margini si fermano, tu borsisticamente sei morto. Questo la borsa lo sapeva non da ieri, né dall'altro ieri, ma da anni. Cioè lo sapevano tutti tranne Zanonato. Vabbè. Tranne Zanonato, tutti hanno capito che Telecom Italia era di fatto industrialmente morta, ma perché finanziariamente era morta. Sì, spieghiamo il problema delle privatizzazioni senza capitali, e cioè l'errore alla fonte di tutto nella privatizzazione di Telecom Italia è stato che nessuno dei gruppi industriali italiani voleva metterci soldi. Allora si è deciso prima col nocciolino della IFIL, sì, della Fiat, e cioè poi con una quota bella di Gnutti, una quota minore piccolissima, infatti non ha retto. Poi è stata scalata dai capitani coraggiosi di D'Alema, e quindi Gnutti e Colaninno, che hanno scalata, però anche lì Colaninno ha anche venduto, diciamo, di fatto l'Omnitel alla Vodafone, quindi abbiamo perso il terzo operatore di telefonia mobile, ne avevamo due noi, il terzo a livello europeo, per acquisire la Telecom. E poi è iniziato il debito, perché quando tu con una piccola quota devi controllare un grande gruppo, poi ti indebiti e cerchi di portare gli utili che riesci a fare in alto, cioè nella società che con una piccola quota controlla un enorme gruppo come Telecom. Esattamente. Poi è arrivato Tronchetti Provera, e l'operazione, ne abbiamo parlato per anni, l'Olimpia, che era la società che controllava Telecom Italia, con dentro anche i Benetton, come si cercasse di portare gli utili a monte. Questo ha avuto come risultato di impoverire Telecom Italia, la traduco in maniera molto breve, sì, sì, cedere, certo, degli asset importanti, Turchia ma non solo, restare solo sul mercato italiano, che è un mercato saturo in cui non guadagni più, e quindi impoverire il titolo. Ecco perché dico, gli studenti di tutto il mondo dovrebbero leggere nei loro manuali al secondo anno di economia come si distrugge un gruppo che creava valore. I have a dream that one day on the red hills of Troy, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Il sogno di oggi, l'avrete già capito, è un sogno, diciamo, che diamo noi stessi. Il sogno è non dover più fare una puntata di Focus Economia in cui commentiamo dichiarazioni così strampalate come quelle che vi abbiamo appena fatto ascoltare. Il ministro Zanonato che dice non è successo niente su Telecom, non è spagnola, è successo pochissimo, è successo solo che Telco è diventata spagnola, e sì, peccato che controlli Telecom Italia, non è successo niente. Vogliamo parlare di Team Brasil, che è il primo boccone che gli spagnoli si papperanno, visto che è la loro grande concorrente in Brasile? Non è successo niente. ma anche il vice ministro Catricalà, che ha parlato nel corso della notte tra il 23 e il 24, neanche fosse un golpe. È mesi che la borsa scommette, anzi l'hanno dichiarato le generali, Mediobanca, l'hanno detto ufficialmente, diminuiremo la quota in Telecom, nessuno che si sia preoccupato di sapere cosa sarebbe successo in questi mesi. Però nella notte tra il 23 e il 24, dice Catricalà, no, è successo tutto notte tempore. E poi il numero uno, perché il numero due è il presidente del COPASIR, l'autorità di vigilanza, i servizi segreti, che dice c'è il rischio che la rete di telefonia vada in mano straniere, è una rete delicata, dove COPASIR, attraverso la rete passano anche le comunicazioni più riservate. Faccio notare a Giacomo Stucchi che lo scandalo Tavaroli, Mancini, Tiger, Cipriani è successo con Telecom completamente italiana, quindi le intercettazioni già ci avevamo pensato noi a fare, a vendere e a utilizzare la rete per altri fini. Ma il numero uno, mi dispiace per lui, oggi è Franco Bernabei, presidente di Telecom Italia, che in questa, diciamo, giungla di dichiarazioni alla Forrest Gump, se mi permettono il paragone, dice: ho saputo tutto dal comunicato stampa. E poi aggiunge, attenzione, si può vendere la rete fissa alla Cassa Depositi e Prestiti, che adesso il governo sta cercando di rimediare dicendo vabbè, scorporiamo la rete fissa, diamola alla CDP, alla Cassa Depositi e Prestiti, però bisogna trovare i soldi, comunque ci sono tempi lunghi, andiamo avanti, servono i soldi per l'aumento di capitale e nulla è scontato. Esiste un concreto rischio di downgrade del debito di Telecom Italia, con inevitabili riflessi negativi sulla capacità di investimento nel medio termine. In tale contesto, la società avrebbe a disposizione almeno due ulteriori opzioni idonee a garantire il necessario rilancio degli investimenti, evitando il rischio di downgrade. La prima alternativa è quella di dismettere, attraverso un processo competitivo, tutte le partecipazioni estere in America Latina. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da un aumento di capitale di Telecom Italia, aperto a soci attuali o nuovi, nella prospettiva delle potenzialità di sviluppo dei mercati in cui opera il gruppo e del valore che può essere creato dal progetto di societarizzazione. E qui arriviamo anche, per spiegarlo al ministro Zanonato con massimo rispetto, che qualcosa è successo, nel senso che Telecom va agli spagnoli, sono azionisti di maggioranza, e Fabio Pavesi, due cose vorrei capire. Uno, cosa capiterà a Team Brasil? Perché alla luce del tuo ragionamento, quello che hai fatto prima, che in questi anni si è continuato a portare l'utile in alto a quelli che controllavano Telecom con quote piccole, smettendo di fare investimenti, cedendo per pagare il debito e trovare quest'utile, cedendo i gioielli all'estero, erano rimasti solo quelli in Argentina e in Brasile, adesso? Adesso è molto probabile che il nuovo azionista, che è un socio industriale vero, fa lo stesso mestiere, è due volte più grande, anche lui ha molto debito, ma ha un margine telefonica. È due volte più grande, ha anche lui, anche loro hanno molto debito. Però ovviamente loro operano nei mercati latinoamericani da sempre, perché sono spagnoli ovviamente, e Team Brasile è un concorrente. Io immagino che un doppione non lo lasceranno in casa, no? Non so. E quindi la prima manovra sarà quella di prendere il boccone buono di Telecom Italia, perché lì Telecom fa i margini. La rete, si svegliano forse un po' tardi, perché voglio dire, la CDP ha liquidità. La CDP è la Cassa Depositi e Prestiti. È la Cassa Depositi e Prestiti. Che ha tanti soldi perché gestisce il risparmio postale degli italiani. Allora, la CDP ha 140 miliardi di liquidità in pancia. Il governo continua a dire le banche non danno credito, dobbiamo fare gli investimenti infrastrutturali, lì c'è un tesoretto, io capisco che vada garantito il risparmio postale. Poi in tutti questi anni di crisi non si capisce perché il governo abbia lasciato la CDP inoperosa, nel senso che mai come in questa crisi dove serviva liquidità poteva essere usata. E anche in questo caso chiedere oggi che la rete venga comprata da Cassa Depositi mi sembra un po' tardivo. Veramente la fiera di Forrest Gump, cioè concordo con te, sono anch'io molto basito da queste reazioni. No, io vorrei mettere, non so se ce l'abbiamo, ma Cocciante, era già tutto previsto fino al punto che sapevo che ora tu mi avresti detto che non siamo più italiani, che ci sono gli spagnoli, te lo stiamo dicendo da mesi, nessuno si è mosso. Sentiamo Zingales, Luigi Zingales, economista, nostro ospite molte volte e anche nel consiglio di amministrazione di Telecom, e lui invece, a differenza del ministro Zanonato, ritiene che un piccolo problema ci sia, lo ha spiegato la nostra Valentina Furlanetto. E se Telefonica comprasse il 100% non ci sarebbero problemi, può fare quello che vuole. Oggi Telefonica ha una quota molto piccola del capitale sociale, e però questa quota piccola avrà delle ripercussioni sulla nostra capacità di tenere e sviluppare il mercato brasiliano ed argentino. In Italia non esiste un ordinamento che difenda gli azionisti da una situazione del genere. Il Premier Letta avrà sentito, ha detto è il mercato, è una società privata, insomma sembra che non voglia la politica occuparsene in qualche maniera. Guardi, io sono il primo che difende il mercato. Il mercato però ha delle regole, e le regole sono che se uno compra tutto fa quello che vuole, se però non compra tutto deve proteggere gli interessi di chi la maggioranza degli azionisti, perché voglio dire, rimane comunque un 78% di azionisti che devono essere tutelati. Mm. E quando diciamo di tutelare il mercato e proteggere il mercato, significa anche occuparsi di questo. Eh sì, la testa di alcune persone che abbiamo fatto sentire oggi è veramente una giungla di confusione. Speriamo che guardino le cose con maggiore lucidità. Però per concludere questo approfondimento, mi dispiace, ma le cose vanno spiegate anche con un certo tempo. Poi mai avrei immaginato oggi dover commentare le parole di Zanonato, di Bernabé, di Catricalà, di Stucchi, del presidente del Copasir, che, ripeto, sembrano dei marziani, sembra Flaiano, no? Un marziano a Telecom. Fabio Pavesi, in realtà quello che è successo in questi anni non è solo che si sono portati gli utili su, perché come tu scrivi sul Sole 24 Ore oggi, qui sono stati distribuiti in questi anni dai vari proprietari di Telecom 11 miliardi di utili, con un titolo che ha perso il 90% del suo valore. Ora, come se un imprenditore, o meglio, come se un padre di famiglia continuasse a indebitarsi in banca, ma continuasse, diciamo, a fare shopping e a distribuirsi, a aumentare il suo stipendio. È un po' strano, prego. Sì, è un po' paradossale. Tieni conto che gli 11 miliardi sono solo gli ultimi 7 anni. La media dei dividendi era 1 miliardo l'anno dal 97. Se li sommiamo sono molto più di 11. Tieni anche conto che ogni anno la Telecom pagava oneri finanziari, quindi interessi sul debito, visto che il debito è alto paghi tanti interessi, per circa 3 miliardi. Allora tu sommi 3 miliardi che paghi per pagare il debito, il miliardo medio e i 2 miliardi e 7 nel picco 2005-2006 di dividendi dati, perché chi stava in cima era a sua volta indebitato, quindi aveva bisogno che la società gli portasse in alto gli utili. Quando fai così, ovviamente, soldi per investire nella tua attività non ci sono, o ce ne sono molto meno. E qui si spiega perché poi hanno proceduto con le cessioni delle attività estere. Perché ovviamente, e soprattutto, se tu non investi, non cresci. Io ho in mente Vodafone. Insomma, uno guarda il grafico di Vodafone. Vodafone opera in un mercato globale. Credo che abbia fatto il 100% negli ultimi 2 anni, ma perché uno cosa fa? Uno vede Telecom ingessata, debito che non scende, margini che scendono, dividendi vengono dati all'esterno, quindi, e vede Vodafone che in realtà fa la strategia opposta, compra, uno cosa fa? Vende Telecom e compra Vodafone, mi sembra normale. Ecco, questa cosa i politici, ma anche chi, insomma, ha governato, l'hanno vista negli ultimi 10 anni, cioè questo film dura da 10 anni, sorprende che tutti quanti oggi chiedano la soluzione dell'ultima ora, quando è un decennio che questa società è gestita in questo modo. Siamo in Italia, bellezza. Eh sì. Siamo in Italia, bellezza. Comunque, adesso basta, perché ho detto che sennò mi saltavano le coronarie. Stavo scherzando, ci mancherebbe, però voglio dire, mancava l'ultimo capitolo nel libro, nel manuale di testo per gli studenti di economia, come non si privatizza un gioiello, mancava l'ultimo capitolo, che è quello che abbiamo appena scritto in questi 2 giorni, no? Come si fa a salire gli spagnoli, tutti si svegliano il giorno dopo, nessuno ci ha mai pensato, come ricordava Fabio Pavesi, a dire alla Cassa Depositi e Prestiti, bene, ti faccio una nuova norma, puoi entrare in Telecom, perché è vero, ha ragione Bassanini nel dire, e Goran Tempini nel dire, che non possono investire in Telecom in questo momento, bastava fare una norma se veramente si voleva salvare. Catricalà e altri potevano chiedere prima lo scorporo della rete, tutti hanno gigioneggiato,

3-4 mesi che sappiamo che l'Italia deve fare un aumento di capitale, che facciamo puntate modestamente su, insomma, cosa faranno i francesi, cosa faranno i francesi, a questo punto se fanno l'aumento di capitale controlleranno l'Italia. Il vice premier Fassina, oggi, 3 minuti fa, il vice ministro Fassina, scusatemi, all'economia: siamo in un punto delicato e il governo vuole capire bene, perché non possiamo svendere l'Italia. Occorre costruire le condizioni per trovare una partnership che non deve essere necessariamente Air France, ma una in grado di valorizzare la parte positiva che resta in Italia. Fassina, anche gli arabi se ne sono andati e Etihad non vuole più comprare l'Italia. È un miracolo se i francesi partecipano all'aumento di capitale, per poi ovviamente portare il traffico su Parigi. Ma chi è che dovrebbe comprarsi all'Italia? Air Dolomiti? Air Europe? Quale compagnia era? Io non ho letto altro. Ma poi che siamo a un punto delicato di svolta lo scopriamo oggi? Che è 3 settimane che raccontiamo l'appuntamento del 23-24 in Francia? Autogrill più 3,70%, A2A più 2,60%, Pirelli più 2,30%, Unicredit più 1,20%, Ubibank più 1,1%, Enel più 1,1%, Buzzi Unicem più 1%, questi i migliori titoli oggi in borsa. Telecom Italia, ne abbiamo ampiamente parlato, meno 4,70%. Tutti si sono accorti che la partita ormai è solo, si è già giocata ed è solo interna a Telco. Pop Milano meno 1,90%, Gtech meno 1,80%, Intesa San Paolo meno 1,70%, Mediaset meno 1,70%. E adesso grande richiesta, diciamo, in questo delirio di dichiarazione da Forrest Gump su Telecom, io voglio far riascoltare il ministro Zanonato, perché è bellissima la sua dichiarazione al nostro Vincenzo Miglietta. Ma intanto adesso in Telecom è successo pochissimo, cioè è semplicemente successo che il Telefonica ha comprato la maggioranza assoluta delle azioni di Telco. Sono alla fine, controlleranno il 22,5% di una società in cui il 77,5% non è Telco. Non è che è diventata quindi Telefonica la proprietaria di Telecom. Io penso, primo, che bisogna anche qua ragionare non solo sugli effetti delle cose che abbiamo deciso, che sono state decise anni fa, ma sull'intero percorso, e che adesso è necessario attuare tutte le politiche per poter evitare eventuali danni. Quali sono i danni? Che il sistema della rete fissa non sia sotto il controllo italiano, visto che è un asset fondamentale nel nostro paese, e che le attività di compravendita non danneggino l'occupazione, per esempio, ma consentono all'Italia di mantenere i livelli occupazionali nel campo telefonico attuale. Quindi io sto lavorando su questo, ma lo ripeto, non ho poteri magici, cioè, sono effetti di cose decise tempo fa. Certo, non è un buon esempio di privatizzazione questa di Telecom. L'impressione che non sia un buon esempio, sì, ho l'impressione che lei abbia ragione. Su Telecom non è successo niente, tranquilli, gli spagnoli hanno solo preso la quota di maggioranza, il 100% dell'azionista di controllo. Adesso bisogna stare attenti che la rete fissa non vada agli spagnoli, veramente è dentro Telecom, nessuno ci aveva pensato. Non ho la bacchetta magica, ho capito. E poi è successo pochino. E forse la privatizzazione di Telecom non è stato un buon esempio. Ha anche Zanonato questa impressione. Ce l'abbiamo anche noi, ministro. La salutiamo, così come salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio 24. Diamo appuntamento a domani per un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Berisoni e dalle sue coronarie, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.